parola a lui. Buongiorno, oggi c'è l'elegia dei sette nani, non ho capito. Buongiorno da parte mia, io mi chiamo Vito Marinelli, sono il marito di Sara, che molti conoscono, mi occupo della comunicazione di questa chiesa. Che cosa fa la comunicazione di questa chiesa? Sono tutte le cose che vedete proiettate, grafiche, perché noi vogliamo annunciare Gesù anche con l'arte, va bene? E quindi questo è il lavoro che faccio con quegli splendidi ragazzi che sono sopra. Grazie. Non so se voi avete mai, voglio iniziare con questa cosa, non so se voi avete mai amato qualcosa in una maniera irrazionale, senza un motivo. Ci state pensando? Un po'? Non so, qualcosa che vi piace, che, a cui vi affezionate e dite ma mi piace proprio questa cosa, non posso farne a meno perché proprio la amo. Ok. Sapete, io mi sono trasferito circa un anno fa, ho cambiato casa e quindi nel posto dove sono andato c'era un giardino. Io non ho mai usato, non ho mai messo mani al giardino, nonostante mio papà lavori come contadino nei campi, lui è l'esperto, io non ne capisco molto, però appena io l'ho visto, ed era circa marzo-aprile, mi sono proprio innamorato di questa parte della casa, perché è un angolo verde, un angolo con due alberi, un bel prato, nel senso ci sono due alberi e 10 metri quadri, niente di che, è un pezzettino di terra. Però ho detto, mamma mia, questa secondo me è un'opportunità. Ho detto, prenderò tempo per sistemarlo. Infatti, nella primavera dell'anno scorso ho dovuto ripulire tutto, ho dovuto togliere le erbacce, sistemare, coltivare. Sapete, poi è arrivato l'inverno e tutto si è distrutto perché le erbacce sono ricresciute, sembrava, non so, l'Amazzonia proprio. Io non so, veramente, cioè sul serio, se voi volete far crescere un fiore ci impiegate mesi, se volete far crescere le erbacce crescono comunque senza che voi glielo chiediate, per favore non crescere, lo crescono perché non le puoi fermare, stanno là proprio, se ne vanno un po' in automatico, no? Un po' così. Sono antipaticissime, però io non mi sono arreso, è arrivata la primavera e quindi ho detto, vabbè, va risistemata questa cosa. Ripulito di nuovo tutto, ho speso molti soldi, non posso dire quanti, c'è mia moglie qui, per piantare dei nuovi fiori, delle nuove piante, niente di che. Anzi, sinceramente, io non so neanche che cosa ho piantato. Cioè, mi piacevano e le ho messe. Quindi ho detto, vabbè, sicuramente sarà un bel risultato. Sapete, quando ho finito tutto il lavoro, devo dire che mi è costato una fatica pazzesca, perché io non è che proprio per i lavori fisici, non ridete, no, non c'è bisogno, per carità, però mi sono spezzato la schiena, le mani erano piene di spine, veramente ho sofferto per questo giardino. E la cosa bella è che quando ho finito mi piaceva, era bellissimo, aveva tutti i fiori colorati, le piante al posto giusto, ero contento, proprio soddisfatto. Sapete, io ho anche messo una foto su Facebook. E quando Facebook mi ha chiesto con chi vuoi condividere questa foto, ha detto con nessuno, solo io. La voglio vedere solo io, perché è mio, non voglio che... Io sono molto geloso di questo giardino, cioè neanche mia moglie può metterci niente, piantare neanche il basilico, non può fare niente. La cosa bella è che già dopo qualche giorno le erbacce sono ricresciute, il caldo è arrivato, e le piantine hanno iniziato a soffrire. E io lì, inerme, che non sapevo cosa fare, ma questo giardino perché si comporta così? Io gli voglio bene. Eppure proprio niente, non riesce ad andare avanti. Ma poi la cosa più brutta è che ci sono delle cose che quando io ho visto che erano nel mio giardino, ho pensato, ah che bello, ci sono delle lumachine. Ok, ho detto, ma che carine le lumachine, sai, ti immagini queste illustrazioni vintage francesi, non so come si dice le lumache, le lumachen, che stanno... E insomma, ho detto, che bello, proprio l'immagine romantica del giardino, così, invece, queste sono delle bestie divoratrici di piante, sono delle distruzioni... catastrofiche, sul serio, io credo che dopo le zanzare vengono le lumache, io le odio. È successo che proprio nei giorni scorsi, proprio quando le piante iniziavano a soffrire, io stavo lì che volevo assolutamente salvarle, continuavo a innaffiare, cercare di togliere le erbacce, di pulire continuamente il giardino, trovo una lumaca appollaiata sul cespuglio a mangiarsi i fiori, i miei fiori. Ed era lì che stava sul fatto colta, lì a mangiarsi i fiori. Mi dispiace per quello che sto per dire, se ci sono delle persone che amano gli animali, apprezzano le lumache, io ho preso questa lumaca e ho dovuto prendere provvedimenti. Non so se voi lo sapete, perché questa è una cosa che mi ha detto il mio amico Gianluca, se tu cospargi le lumache di sale, loro soffrono. Si contorcono fino a morire. E io ho fatto questo con questa lumachina. Lo so che il WWF adesso mi verrà contro, togliete questa predica da YouTube, per favore. È successo che questa lumachina stava morendo, è agonizzante, non contento, io l'ho rimessa nel giardino, a monito di tutte quante. Così sappiate che fine farete se mangerete ancora i miei fiori. Io amo, capite, so che voi potete immaginare la cosa che vi piace di più, io amo in qualche modo incondizionatamente questo giardino. E sapete, c'è una cosa più bella, che anche Dio ci ama in modo così incondizionato, senza che noi alla fine forse gli diamo tanta soddisfazione, però Lui ci ama e non si stanca mai di amarci. Io sono anni che conosco Dio e ancora sono ancora preso da questo pensiero e dico, perché mi ami? Perché mi ami? Se io sono così. C'è una storia nella Bibbia che ci aiuta un po' a capire questo ed è un libro che a me piace tantissimo e non mi stanco di leggerlo e quando lo rileggo so che parla sempre al mio cuore ed è il libro di Osea. Il libro di Osea è un libro scritto 750 anni avanti Cristo. Lo so che questa informazione non serve a nessuno, però sai, per far vedere che hai studiato, c'è il pastore di fronte, devo fare bella figura. 750 anni prima della nascita di Cristo, quest'uomo ha una grande rivelazione. È un profeta, capite? Non so se voi avete dimestichezza con i profeti, però i profeti sono... delle persone che parlano da parte di Dio, ricevono un messaggio da parte di Dio e lo danno alle persone che hanno bisogno di riceverlo. Nella fattispecie, Osea era un profeta molto, molto influente, molto importante. Parliamo di un profeta le cui parole potevano cambiare il destino di una nazione. E Osea aveva una credibilità pazzesca. Se oggi fosse vissuto i nostri giorni, qualunque cosa lui avesse scritto su Facebook, tutti dicevano mi piace. Se lui andava in TV, tutti guardavano quel programma, perché era una persona molto influente. E un giorno Dio fa una cosa un po' strana con quest'uomo, gli dice questa cosa qua che veramente suona veramente molto, ma molto strana, ed è scritto in Osea, capitolo 1, verso 2, dice: va, prenditi in moglie una prostituta e genera figli di prostituzione, perché il paese si prostituisce abbandonando il Signore. Osea, scusate, non ho capito bene. Dio, per favore, parlami chiaro perché io questa cosa non l'ho capita. Cioè, tu mi stai dicendo, allora io sono un single, sono amato da tutte le donne di questo paese, tutti aspettano che prima o poi ne sposi una. C'è il mio amico Amos che dice: guarda, c'è questa ragazza. E invece no, lui rimane lì, ha una credibilità pazzesca, tutti i giornali parlano bene di lui, e gli dice: ora tu sposi una prostituta. Cosa? Per fare breve un po' questa storia, Osea sposa, conosce una ragazza che si chiama Gomer. Ora, questa ragazza Gomer è una prostituta. A me dispiace dire questa parola qui, non so se vi offende o vi fa sentire in qualche modo, ferisce la vostra suscettibilità, però questa donna era una prostituta. E Osea la sposa. Sapete, per questa ragazza non c'era nessuna possibilità di futuro, perché capite bene qual era il senso di questo lavoro, cioè non avrebbe più avuto le possibilità di sistemarsi, non avrebbe avuto una pensione, non avrebbe avuto nessuno che si curava di lei, perché era lontana dalla società, reietta dalla società, era una persona immorale. E Osea la conosce, va lì e la sposa. Organizza il matrimonio. Questo è tempo di matrimonio un po' per molti di questa comunità, di questa chiesa. E voi potete immaginare che cosa possa essere stato questo matrimonio. Mamma mia, Osea sicuramente aveva ancora degli amici, delle persone che erano con lui quel giorno. Se immaginate, no, gli invitati del lato dello sposo, gli invitati del lato della sposa. Forse da Osea c'era un sacco di gente, anche se Amos continuava a dire: ma chi te lo fa fare? Ma sei impazzito? Guarda che forse non hai capito bene. Però Osea va quel giorno e si sposa. E forse dal lato della sposa non c'era nessuno. Nessuno. Chi avrebbe potuto dare credito a questa ragazza? Nessuno. Si sposano. Il matrimonio va. Iniziano la loro vita insieme. Non so come possa essere stato il primo giorno insieme, ma sono passati anni e Osea e Gomer sono ancora insieme e hanno anche dei figli. Hanno dei nomi pazzeschi questi figli, andateveli a leggere, sono improbabili. Penso che nessuno dovrebbe chiamare dei figli come sono stati chiamati i figli di Osea. Ma loro, sai, il loro matrimonio in qualche modo sembra funzionare. Ma un giorno succede una cosa terribile. Osea si sveglia nel suo letto e la persona che dovrebbe essere accanto a lui non c'è più. Non c'è più. Dov'è? È scappata. Cosa ha fatto? È andata via? Non lo sappiamo. Forse ha lasciato solo un biglietto scritto, sai, come quelli di addio. Vogliamo leggerlo? Leggiamolo. Osea, mi dispiace, vado via. Io non posso fare la voce di Gomer, non so com'è la voce di Gomer, però mi dispiace, vado via, non posso più restare qui. Sembra il titolo di una canzone. Mi rendo conto di ingannarti, la mia stessa natura, il mio pensiero, la mia vita. Mi dicono che questo non è il posto per me. Mi dispiace. Io sono questa qui, sono fatta così, non posso più vivere con te, non è quello che voglio, non è quello che desidero veramente. Prenditi cura dei nostri figli. Adios, come direbbe Cannavacciuolo. È andata via. Voi riuscite pochettino a fare uno sforzo di come Osea si sia sentito quella mattina? Un disastro, qualcosa di orribile era successo di nuovo nella sua vita. Non bastava solo che era stato costretto a sposarsi questa donna che nessuno voleva, che nessuno amava e che tutti allontanavano, ma in più era stato abbandonato. Immaginatevi già la telefonata di Amos. Osea, che è successo? Sapete, Dio ha chiesto ad Osea di andare e sposare quella donna. Sapete perché? L'abbiamo letto prima. Perché il popolo di Israele era andato via lontano da Dio, si era allontanato, non riusciva più a essere fedele, amava altri dei, amava altri idoli, sapete, cose statue, cose che non si muovevano, ma siccome era la cultura del tempo, tutti dicevano, ma questo è un Dio che vale la pena di servire, dovresti conoscerlo, e non so perché questa gente, forse, non lo so, sapeva che cosa era successo prima nella storia del popolo di Israele, tutti la conosciamo, il Mar Rosso che si apre, e le piaghe d'Egitto, cioè cose pazzesche, da film meglio degli Avengers, degli effetti speciali pazzeschi, e questi li hanno visti veramente. E loro si allontanano comunque da Dio e vanno via, quasi come una prostituta si allontana. È infedele. Però c'è una cosa che forse non è chiarissima, ma secondo me è la chiave per capire questa storia, ed è il fatto che Osea amava Gomer. Ti rendi conto? Osea amava Gomer. Lui si era innamorato in maniera pazzesca di questa donna, e non so perché, per quale motivo, lui aveva solo un'idea, solo una cosa in mente: io non so come fare, ma ho bisogno che questa cosa si sistemi, non può finire così. Tant'è che Dio parla di nuovo ad Osea, quello che gli aveva detto, prendi questa donna in moglie, Dio parla nuovamente ad Osea e gli dice, Osea 3, verso 1, va ancora, di nuovo, ama una donna amata da un altro e adultera, amala come il Signore ama i figli di Israele. C'era una lezione da imparare in questa storia, che Dio amava ancora Israele, come Osea amava Gomer. Sapete, Dio ha fatto assolutamente leva sui sentimenti di Osea, perché Osea era innamorato. Ed è successo questo, che lui è andato in un posto dove nessun credente, nessun uomo di Dio, nessuna persona con una sana di cervello, che ha una morale, è andato lì a prendere sua moglie. Capite quel posto, eh? È andata lì e l'ha trovata, e ha detto, vieni via con me, ma è arrivato un uomo che era il suo padrone e gli ha detto, ehi, dove vai? Dove vai? Che cosa vuoi da questa donna? Questa donna è mia e tu non puoi permetterti di avvicinarti. Osea reclama e dice, guarda che è mia moglie, io la rivoglio indietro, ora l'ho trovata e la rivoglio indietro. Quest'uomo dice, se tu la vuoi devi pagare. Non bastano i reclami di Osea, non serve che lui protesti, non serve niente. Quest'uomo è un criminale e tiene prigioniera questa donna e dice, se vuoi la paghi. Quanto devo dare? Questo è questo. Sapete, Osea paga 15 sicli d'argento e una grandissima porzione di orzo. Cioè vuol dire che lui non ce la faceva a pagare tutto in contanti, non aveva i soldi per pagarla, ha dato tutti i contanti che aveva, 15 sicli d'argento e quella porzione di orzo per completare il costo, sapete che costo è? Di una schiava, per comprare una schiava. Questo è accaduto e questo è successo, ha dato tutto quello che aveva per riavere indietro sua moglie. Perché? Perché? Io sono sicuro che questa storia ci insegna qualcosa che è molto importante anche per noi. Perché che tu lo voglia o no, non so se sei credente o no, non so da quanti anni sei credente o quello che è la tua vita morale o no, però tutti alla fine ci siamo allontanati da Dio in un modo e in un altro. Mi dispiace, il paragone è un po' infelice, però davvero tutti abbiamo vissuto delle infedeltà e tutti ci siamo allontanati in qualche modo da Dio, prendendo delle distanze da Lui. Perché? Però c'è una buona notizia. Dio ti ama. Dio ti ama. Non importa quello che è successo, Dio ti ama. È pazzo? Sono sicuro che questa cosa sta parlando al mio cuore. Io voglio dirti una cosa e sta parlando anche al tuo cuore. E sento forte questa cosa da dirti. E probabilmente ci sono delle cose che stanno vivendo nella tua vita che ti tengono lontano da Dio. E sai qual è la parte brutta? Che tu dici, io non ci posso fare niente. Tu forse stai scrivendo biglietti come Gomer e dici, io sono fatto così, io sono questo, io non mi importa quello che pensi tu, lo so che mi ami, ma io voglio fare la mia vita, io amo le cose che il mio cuore desidera, io voglio questo e voglio quest'altro. Mi dispiace, ma questa vita non è fatta per me. C'è ancora una buona notizia, ed è sempre la stessa. Dio ti ama. È pazzo? Sì. Non so che cosa hai in mente tu, però il Signore oggi vuole dirti qualcosa. Senti, e questo è quello che anche Osea ha fatto e abbiamo capito, è andato a prendere sua moglie. Oggi Dio ti viene a cercare. Oggi Dio ti viene a cercare. E non gli importa quello che tu stai vivendo, non gli importa quello che tu stai pensando di te stesso, non importa neanche che etichetta ti sei messo addosso, non importa neanche quello che la gente dice di te, Dio oggi ti viene a cercare. Ti viene a cercare lì dove sei, nella miseria dove sei, nell'abbandono dove sei, nella tua famiglia distrutta, nella tua situazione di malattia, nel tuo terrore, nelle tue paure, nelle tue angosce, nel tuo isolamento, nel tuo abbandono, nella tua deviazione. Dio ti viene a cercare. Io so che questa parola è per qualcuno in particolare e so che sta parlando al tuo cuore. Per piacere, non fare finta di non sentire, perché oggi hai un'opportunità, perché Dio è venuto qui proprio perché voleva incontrarti, perché vuole stare con te. Dio vuole vivere una relazione con te. E davvero questa cosa non riguarda solo persone che credono o non credono, è per tutti noi, perché abbiamo bisogno di costruire in una verità la nostra relazione con Dio. Non è qualcosa che costruisci perché devi farlo, non è un qualcosa prescrittiva che ti dice tu sei qui, devi fare questo, lava i piatti e spazza per terra. No, è una relazione che Dio vuole con te. Dio vuole essere come Osea, il marito amato, l'unico, di cui non vuole compromessi. C'è un verso che parla per tutti noi, ed è riguarda il Vangelo di Giovanni. È un testo famoso che è probabilmente il più banale che tutti conosciamo, ma ancora parla forte. Ed è: Dio ha tanto amato il mondo, Dio ha tanto amato te, sei tu nel mondo, non sei di Marte, ok? Sei del mondo, che ha dato il suo unico figlio affinché chiunque, io, tu e tutte le persone che ti saltano in mente adesso, chiunque crede in Lui, non perisca, ma abbia vita eterna. Non so che cosa sai della parola perisca. Immagino che tutti probabilmente quando incontri una signora per strada dice mi raccomando non perire. No, perisca è un termine forse un po' arcaico per dire non muori, non sarai abbandonato, non fallirai. E questo verso ci spiega Se prima abbiamo capito che Osia ha pagato 15 sicli d'argento e orzo, Dio, per venire a trovare te, ha pagato con suo figlio. Questo è un prezzo altissimo. Sapete, Dio forse poteva reclamarti in qualunque modo e dire: senti, cara persona che tieni schiavo il mondo, questa qui, l'umanità è mia, io non devo pagare per questo. Però noi ci siamo messi in quella schiavitù. Noi abbiamo deciso di stare da un'altra parte. Noi abbiamo scritto il bigliettino di addio. E adesso chi ci viene a salvare? Lui. Lui ti viene a salvare oggi. E questo prezzo è il prezzo che Dio ha deciso di pagare per te. Ora, c'è molta retorica su questa cosa, potrebbe essere una cosa scontatissima per molti, però ora fatti questa domanda, perché io me la sono fatta. Onestamente, tu vali la morte di una persona? Tu vali la morte di una persona? Questa domanda per me è imbarazzante, se poi devo dire: io valgo la morte di Gesù? Tu vali la morte di Gesù? La risposta è no. Come pensi di poter valere tanto? Ed è vero. Però la bella notizia è che Dio ti ama. Dio ti ama. E a Dio non importa quello che è successo, non importa quello che è accaduto nella tua vita, non importa come ti trovi oggi qui. Non so, forse per caso, no, non lo è per niente. Oggi Dio ti voleva incontrare qui. E come Osea fece, Dio dice al tuo cuore: vieni. Lo leggiamo insieme in Osea 2, verso 19. Osea, Dio dice per bocca di Osea, e lo dice a Gomer, ma lo dice anche a noi: io ti fidanzerò. Quando dice Dio io ti fidanzerò, non ti sta dicendo ti do un anello che poi vediamo se ci sposiamo. Ti sta dicendo io ti farò mia moglie. È un impegno, vero, non può tornare indietro. È un fidanzamento serio. Io ti fidanzerò, ti farò mia sposa. A me per l'eternità, per sempre. Ti fidanzerò a me in giustizia e in equità. Vuol dire nel diritto. Quale diritto? È il diritto di essere chiamato figlio di Dio. Perché non appartieni più a uno schiavo, ma appartieni a Dio. E sei figlio di Dio se tu credi. È questo che la Bibbia dice. Ora lo so che questa situazione riguardo il peccato per molti è così superflua. Ogni volta che tu ti allontani da Dio, tu pecchi nella definizione più precisa del termine. Cioè stai proprio sbagliando mira. Stai proprio sbagliando mira. Tu non stai centrando per niente ciò per cui sei stato creato e sei nato. Tu sei nato per vivere una relazione con Dio. E quando tu prendi le distanze da Dio, con qualunque tu cosa pensi, con qualunque tu cosa fai o con qualunque tu cosa dici, tu pecchi. Tu vai sotto un altro padrone. Tu ti metti sotto un peso che nessuno più può togliere. Ma Dio ti ama e viene da te, ti vuole incontrare e vuole portarti a casa. Questo dice Osea a Gomer: Gomer, io ti fidanzerò. Io posso immaginare che Gomer si copriva la testa quando è andata a casa, dirà: questo mi ucciderà, chissà che cosa mi dirà, che cosa mi farà. E Osea dice: io ti amo e ti fidanzerò a me per sempre. Non ci sarà più debito per te. E sapete Gomer quando si è convinta dell'amore di Osea davanti a queste parole? Non per il fatto che l'abbia sposata prima, non per il fatto che gli abbia dato dei figli, lei è rimasta senza parole, affascinata e coinvolta dall'amore di Osea. E oggi Dio rivolge queste parole a te. Oggi Dio rivolge queste parole a te perché vuole riportarti a casa. Sei stanco, dai, basta. Basta combattere, non ce la puoi fare da solo, non ce la farei mai. Lui viene a prenderti, paga il prezzo e ti porta a casa. Oggi ci sono queste quattro persone, si battezzano per dire mi ha riportato a casa. Possiamo anche applaudire questa decisione perché Dio ha riportato a casa queste persone e vuole farlo anche con te oggi. Posso pregare per te? Vogliamo alzarci in piedi? Signore, io non posso che dirti grazie, davvero, solo trovare le parole per dirti grazie di quello che tu hai fatto, non basterebbe tutta la mia voce, tutti i miei anni di vita per dirti grazie. Perché tu mi hai visto come sono, tu mi hai visto dove stavo, tu mi hai visto che cosa ho fatto e nonostante tutto hai deciso di amarmi e sei venuto a prendermi per portarmi a casa. Signore, io ti prego per tutte le persone che sono qui oggi, questa mattina probabilmente, forse non sapevano di ascoltare questo da te, ma ti prego che questi cuori possano oggi abbracciarti. Ti prego che oggi tu non convinci queste persone perché io ho detto questo o perché c'è una bella musica e forse fin anche perché ci sono questi battesimi, ma perché tu sai parlare al loro cuore e tu stai parlando al loro cuore e sai convincerli di quell'amore affascinante, irresistibile, a cui nessuno può dire io non ci sto. Grazie Signore perché hai pagato il prezzo per questo, perché noi non lo meritavamo, ma tu sei venuto a prenderci. Signore, io ti prego di portare tutte queste persone oggi a casa, che possono tornare a casa innamorate di te, pazzescamente coinvolte con tutto quanto quello che succede quando ti innamori e non capisci più niente. Signore, ti prego di convincere tutte queste persone che sono amate e che ce la possono fare perché tu ce l'hai fatta. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Se hai fatto questa decisione, noi vogliamo applaudirti e ringraziarti e fare festa con te perché Dio oggi ti porta a casa.